mattina e alza bandiera, che poi ti dura fino alla sera. Se in bagno non riesci a pisciare perché non lo riesci a piegare, con il pantalone attillato non è che sia una gran bella visione. E se per questo ti vuoi curare, il nostro ballo è la soluzione. Il trenino, ma l'importante è stare vicino. Se lo appoggi a quello davanti, poi vedrai, lo faranno tutti quanti. E tutti in fila, felici, contenti, avanti pacco di divertimenti. E come fischia allegra giuliva, chi lì davanti fa la locomotiva. L'unica cura per il priapismo è una sola, il tropicalismo. E se davvero ti vuoi curare il tropicalismo, tu devi ballare. Adesso facciamo un passo in avanti, adesso muoviamo insieme. Dobbiamo stare ancora più stretti, dai tutti in fila, tu parti il trenino. Adesso facciamo un passo in avanti, adesso muoviamo insieme il bacino.